Mix 24 di Giovanni Minoli. Buongiorno, bentrovati su Mix 24. Tra poco, come ogni venerdì, vi racconteremo la storia dei nostri anni anche attraverso la musica. Oggi torniamo nel 1995. In quest'anno esce nelle librerie Alla ricerca della morale perduta, un libro scritto da Eugenio Scalfari, fondatore e direttore all'epoca della Repubblica. Proprio mentre il suo testo è nelle librerie scoppia una polemica sulla morale e l'etica dell'informazione. Tutto parte dall'attacco di Massimo D'Alema ai giornali. Basta con l'informazione scritta, dice D'Alema. Meglio la televisione. A questa provocazione Eugenio Scalfari risponde in un faccia a faccia. Senta, allora se D'Alema vorrà l'intervista dovrà chiedergliela in ginocchio? No, in ginocchio, via, non esageriamo. No. Ecco, ma non le sembra più uno scontro tra poteri che non un servizio ai lettori, una posizione di questo genere? No, io credo che le interviste abbiano in qualche modo fatto il loro tempo. Sa, le interviste sono il genere più difficile, molto difficile fare una bella intervista, molto difficile. Ecco, qualcuno invece dice che lei ha reagito subito perché è intelligente, più svelto degli altri e ha capito che se passa la linea di D'Alema a favore della televisione non sarà più lei a decidere chi conta e chi no, cioè a dare la patente, come è riuscito a fare molto abilmente in 40 anni. C'è questo rischio o solo cattiveria? No, questo io poi tra l'altro non ho mai dato patenti, ho detto il mio pensiero, ma insomma poi che vale quel che vale. No, beh, è valso molto in questi 40 anni. È valso un po', diciamo. Ecco. Quindi questo rischio non è questa la paura? No, non direi proprio, no. Io dico che D'Alema dice anche delle cose ragionevoli, delle cose che anche noi dibattiamo. E adesso ne parleremo. Ecco, adesso ne parleremo. Ecco. Ma il dubbio che anche la gente in qualche modo la pensi un po' come D'Alema sui giornali, lei ce l'ha oppure no? C'è una contrazione del mercato dei giornali. Questa contrazione non è solo in Italia, è in tutto il mondo. Mm. Quindi evidentemente, sa, il problema di chi legge i giornali è che chi legge i giornali vuole esercitare il proprio pensiero. Legge, acquisisce le notizie, acquisisce le opinioni e poi se ne fa una propria. Allora probabilmente noi viviamo in un'epoca in cui c'è meno gente che ha voglia di pensare. Mm. E quindi di lì lei fa risalire a questo? Insomma, cioè è colpa del lettore, non di chi fa il giornale? No, chi fa il giornale ha tante colpe. Anche i dentisti hanno colpe, sa? Sì, anche no, ma adesso parliamo delle colpe dei giornali. Io quando ricevo delle lettere, spesso ne ricevo di lettori che criticano un certo modo di fare il giornale e segnalano errori, io faccio ammenda, cerco di correggere, poi domando, di solito rispondo alla persona, domando lei che mestiere fa, nel suo mestiere non ha mai fatto errori? Sì. Esiste una professione in cui non si fanno errori? Senta, ma non è che adesso la gente compra i giornali più per la promozione che per quello che c'è scritto? No, non direi. Naturalmente la promozione ha un suo effetto, però insomma, lei parla della televisione, lei fa televisione. La allora, la televisione, grosso modo, tratteggia uno spettatore passivo. La lettura della parola scritta presuppone un lettore attivo. E quindi lei dice la gente vuole essere meno attiva. La gente certamente vuole essere meno attiva, nel pensiero. Sì, certo. Sì. Ecco, ma quando D'Alema dice ormai tutti i giornali sono giornali partito, giocano per certi interessi, per certi poteri, sempre al servizio di qualche interesse non detto. Ecco, esagera o c'è del vero? Secondo me esagera largamente. Sì, ma qualcosa di vero c'è o no? Ma no, di vero che cosa c'è? C'è che i giornali sono in Italia, non solo in Italia, di proprietà di gruppi industriali o finanziari che hanno anche altri interessi. In 1995 tra storia e musica arriverà tra poco, ma prima, come ogni venerdì, vi lascio in compagnia di Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Buongiorno Cravetto. Buongiorno Fiori. Cravetto, 22 anni fa così parlava Scalfari. Oggi possiamo dire che non c'è più gara comunque. No, infatti la TV ha stravinto, sì. E si denota dal fatto che tutti i giornalisti della carta stampata dove vanno? Ma non lo so. In TV. In TV. Esatto. In TV. Pensavo alla radio. Comunque noi siamo a posto perché siamo qui a metà strada. Chi ha stravinto veramente la radio? Però ha delle capacità di previsioni non indifferenti. Anche mi ha colpito tanto la parte in cui ha detto che vero che è la cosa più difficile da fare l'intervista, però è un genere che non andrà più. No, che l'intervista sarebbe morta. È morta, non c'è più. Non ne trovo mai l'intervista. Va bene, tutto a posto, tranne che per la carta stampata. Però, a proposito di televisione, Cravetto, l'hai visto il match dell'anno? A quale ti riferisci? Perché ce ne sono stati diversi. Emma Belen? No, Cravetto, di più. No, di più. Ok, Ventura, Mara Venier, l'ho visto anche quello straordinario. No, di più, Cravetto. Mi sforzo? Sì. Ce l'ho. Eter Parisi, Cuccarini. No. Chi ha vinto? No, così è troppo, Cravetto, non puoi. Però ti stai avvicinando al punto, perché io mi chiedo, ma chissà se Lorella sarebbe stata Lorella senza Eter e viceversa. Per cui senti qua. And here we stand in the finals. Non avremmo mai pensato di poter essere in finale. Sono felice per te, mi andava bene anche perdere da te oggi. Era già incredibile questo rientro. Tennis is a tough sport. Tennis è uno sport difficile, non c'è pareggio. E oggi avrei accettato volentieri anche il pareggio. Cravetto, hai capito, no? Federer, Nadal. Comunque fa il furbo, perché in quale altro sport esiste il pareggio? Cioè è facile fare il fenomeno una volta che hai vinto, no? Poi tu, no, tuo fenomeno del tennis certo, mondiale. Il pareggio non esiste e poi comunque... Dimmi, ma ecco, il punto è se tu accetteresti un pareggio, non so, una persona a caso, me. Non voglio essere troppo dura, per cui faccio riferimento alle parole che usò Sofia Loren in risposta alla Lollobrigida. Sì. E disse, è un vero peccato che la signora Lollobrigida non sia mai riuscita a vincere un Oscar in vita sua. Che peccato. Ma quanto è stata dolce. Mi tocca rispondersi come la Lollobrigida rispose alla Loren. Perché le disse così. Cara, io sono diventata una star senza aver avuto un marito che mi produceva i film. Comunque abbiamo capito una cosa, cioè l'importanza della rivalità è fondamentale. Anche quella dell'amicizia. Ci fa del bene. Molto, molto bene. Grazie, amica mia. Prego, amica mia. Però oggi ti parlo di altro. Ti voglio parlare di chimica e bellezza. In che ordine? Bellezza e chimica? La bellezza chimica? No, poi ci facciamo una puntata anche su quello perché è un tema. No, Krav, la chimica della bellezza. La bellezza è una cura? Allevia il dolore? Ma quante sono poi le forme della bellezza? Massimo Galbiati è un professore di chimica cinquantenne e insieme all'ultracentenario collega professor Virginio De Reitner viaggia verso un misterioso convegno in Svizzera a bordo di una Jaguar Coupé. Sono i protagonisti di La chimica della bellezza di Pier Sandro Pallavicini, chimico, docente all'Università di Pavia, scrittore. Pallavicini, La chimica della bellezza è il suo 8° romanzo. Ma qual è il punto d'incontro tra il romanziere e il chimico? In realtà non c'è discontinuità. Poi c'è anche una continuità di tipo creativo, e cioè l'attività dello scienziato, del chimico e dello scrittore ha a che fare appunto con la creatività, con l'invenzione, con l'uso dell'intelligenza per creare qualcosa di nuovo. La chimica della bellezza è anche un atto di accusa nei confronti dell'università italiana, ma il peccato più grave è quello di fare meno ricerca o di non farla più? Sì, il peccato più grave è questo, al di là dei meccanismi distorti che c'erano e oggi ci sono molto meno nel reclutamento, è che c'è poco reclutamento e quindi poca ricerca, ci sono anche pochi soldi per i pochi docenti rimasti, per i nuovi pochi ricercatori che ci sono, che stiamo sottofinanziando in maniera deprimente la ricerca nelle università italiane, stiamo buttando via un patrimonio che all'estero invece viene ancora molto apprezzato. Nel suo libro parla anche della sensazione di estraneità dovuta all'essere uno scienziato, ovvero? Si è sempre guardati in un modo un po' strano, perché da chi non è scienziato, un po' perché la scienza è poco comunicata purtroppo e quindi si capisce poco quello che facciamo, e un po' perché lo scienziato tende ad avere un approccio il più razionale possibile alle cose, mentre chi non è scienziato tende invece ad avere un approccio più emozionale, più emotivo, diciamo così. E quindi c'è questa discontinuità per cui siamo sempre visti come delle persone che non ragionano nel modo comune, e da qui l'estraneità che spesso fa anche abbastanza male. Però lei scrive anche che per gli scienziati è difficile prendere qualcosa sul serio, visto che mettiamo tutto dentro un quadro razionale di senso e quasi niente ce l'ha. Sì, ecco, questo quadro di senso in cui poche cose hanno senso fa riferimento alla vita sociale, alla politica, cioè è così difficile riuscire a definire ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, perché sono talmente tante le variabili che hanno a che fare con le scienze sociali e le scienze sociali applicate, che è difficile arrivare a una conclusione. Che Dio non esiste ritorna ed è ripetuto più volte nel libro. È impossibile per uno scienziato avere fede? Questo è un punto importante in questo libro. Per uno scienziato avere fede è quasi impossibile, ma è molto difficile, però ne conosco tanti di scienziati che hanno fede. Ma di fronte a un'assenza di senso, la fede non può essere l'unica risposta possibile, invece? No, perché è una risposta a cui si tende a non credere, perché ha ancora meno senso del resto. O ci si lascia andare, allora si dice, bene, lascio perdere la mia razionalità, non ragiono sulla base delle evidenze scientifiche che ho, e allora sì, però tradisce la propria missione, la propria vita, ciò che si è imparato, ciò che si è costruito. Pallavicini, ma la conoscenza è bellezza? Sì, la conoscenza è bellezza, e lo scoprire il meccanismo delle cose mette tutto in una prospettiva di bellezza, perché conoscere significa ritrovare l'ordine delle cose, ed è esattamente l'opposto del dramma quotidiano in cui viviamo, cioè la crescita del disordine, la crescita dell'entropia, il che vuol dire la presa di spazio da parte della morte. Ecco, quando sappiamo, rimettiamo le cose in ordine, combattiamo contro l'entropia in un modo molto lato, stiamo combattendo contro la morte. La conoscenza intesa come bellezza è anche come una diversa forma di fede? Beh no, non è una fede, ma una certezza, una cosa diversa. È una risposta da scienziato? Sì, non riesco a darne altre. Grazie per Sandro Pallavicini, La chimica della bellezza, Feltrinelli. Per oggi occhi sporco, perché fai di tutto perché io non capisca assolutamente niente dei libri che tu leggi. Cioè, allora diciamocelo e facciamo, buttiamo giù le carte, diciamocelo. Cravetto, sei un passo avanti, perché io noto che questo l'hai capito. Che cosa? Esatto. Che lo faccio apposta per te. Ah, ok. Quindi sei molto avanti. Per fortuna. Comunque, ti porto ancora più avanti. Quindi dove mi porti? Indovino. No, dillo tu, dai, dillo tu. Ti porta a Torino, dove a settembre nascerà una scuola davvero molto molto avanti. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Laura Milani, lei è l'ideatrice della Scuola Possibile, una scuola elementare che aprirà a Torino il prossimo settembre, dove i bambini andranno a scuola senza cartella, non avranno i compiti e non riceveranno voti. Sembra la scuola dell'isola che non c'è, e invece ci sarà. Ecco, da dove nasce l'idea? Intanto è vero che sembra la scuola dell'isola che non c'è, però i tempi cambiano, le cose cambiano, e per fortuna quello che una volta era l'isola che non c'è, adesso ci sarà. È un'isola che c'è, esatto, ci sarà. L'idea nasce perché io sono direttore di università, che è l'Istituto d'Arte Applicata Design, IAD, e noi come università di alta formazione ogni biennio presentiamo dei progetti di ricerca al Ministero. Uno dei più interessanti che abbiamo sviluppato era proprio quello rispetto alla creatività ai bambini, e quando siamo arrivati quasi alla fine di questo studio, in sostanza il gruppo di lavoro con cui io stavo lavorando si è posto una domanda, cioè a questo punto di approfondimento dell'argomento che facciamo? Scriviamo un altro libro o facciamo una scuola? Quindi è una scuola per i bambini in cui l'obiettivo rispetto alla scuola normale qual è? La scuola possibile mette al centro di tutto il bambino e i suoi bisogni, che sembra banale, ma è esattamente l'opposto di quello che succede tradizionalmente nella scuola italiana. Cioè la scuola italiana è una scuola di grande cultura, cioè di grande levatura, ma sì, dove il bambino in realtà è un elemento conclusivo, non è l'elemento di partenza, non è l'elemento attorno a cui tutto si snoda. Ho letto anche che una scuola che nasce sia per i bambini, come ha detto lei, ma in un qualche modo anche per far convivere scuola e genitori. In che modo? Allora, questa è una scuola parentale, il che vuol dire che si considera che il bambino sia un elemento dinamico della società come tutti noi, e quindi pone il bambino in relazione col contesto, e chiaramente il rapporto del bambino con la scuola e con la famiglia sono due dei suoi riferimenti principali nella vita. Certo. E quindi devono necessariamente essere in relazione. Inizierete dalle elementari. Quali saranno i punti salienti della scuola possibile, sia a livello di orario che numero di bambini nelle classi? La scuola possibile ha intanto un ingresso e un'uscita lenti, perché si deve ricordare che il passaggio da casa a scuola e da scuola a casa è sempre un passaggio di cambio di sistema, proprio di cambio di mondo. Molto stressante, quindi, anche. Sì, di solito è molto stressante, soprattutto quando è vissuto con l'orario, cioè con l'orologio alla mano, come fanno gli adulti. Quindi che orari ci saranno tra le 8? Si entra tra le 8 e le 9 e si esce tra le 4 e mezza e le 5, questo già per dare un senso. Ci sono tre moduli di lezione al giorno di un'ora e 20, un'ora e mezza, che sono sempre intercalati da una pausa di almeno mezz'ora e quella del pranzo di un'ora e mezza, perché è ormai evidente, lo si sa molto bene, che i bambini non hanno la capacità di mantenere l'attenzione come gli adulti, che tra l'altro riescono ad ottenerla ovviamente sforzandosi, ma hanno bisogno di recuperare, e loro recuperano proprio sfogandosi fisicamente, distraendosi, cambiando sistema. Quindi queste pause sono funzionali a farli rendere meglio, a farli rendere più presenti, più partecipi nei momenti delle lezioni, tra virgolette, vere e proprie, fino ad arrivare a seguire il ritmo della giornata, cioè le parti più faticose si fanno al mattino e via via si arriva verso l'elemento più ludico, che conclude la giornata, cioè il quarto modulo, che noi chiamiamo classi unificate, che sono le parti più laboratoriali, quindi quelle che stanno al di fuori delle materie fondamentali, il corso di giocoleria, il massaggio per i bambini. Di giocoleria? Cos'è il corso di giocoleria? Il corso di giocoleria è legato a uno dei temi fondanti della scuola, che è l'educazione fisica, cioè l'educazione al movimento. Sì. Quindi un'educazione fisica più evoluta. Esattamente. Ho letto che grande spazio verrà dato anche all'inglese, quindi la scuola possibile è una sorta di scuola bilingue? La scuola possibile è una scuola italiana, cioè di matrice culturale italiana, sì, che però, essendo una scuola contemporanea, sì, e quindi si parte da subito con l'inglese, ma non appunto imparandolo, ma familiarizzando con questa lingua, sentendola utilizzare e quindi abituandosi con una certa familiarità in tutte quelle che sono le attività ordinarie, dal pranzo all'accoglienza, ai giochi, eccetera, eccetera. Questo succede i primi due anni, sì, per fare in modo che quando poi si va ad approfondire, come si approfondisce l'italiano, eccetera, diventa praticamente una questione fisiologica. Quindi più inglese, ma dall'altra parte invece un'altra peculiarità è niente compiti. Perché niente compiti? Perché in realtà i compiti non servono, e lo dico in una maniera questa volta molto chiara, cioè se la scuola è una scuola valida, deve riuscire ad essere esaustiva del proprio compito all'interno del tempo che le è dedicato, e non usare il tempo di un altro, che in questo caso è il tempo della famiglia, il tempo degli affetti, il tempo dell'amicizia, il tempo del far niente, il tempo del riposo, per supplire a quello che non riesce a fare. Cioè, però magari il caso in cui c'è qualche bambino che ha più bisogno di altri di fare più esercizi, esercitarsi di più. E lo farà a scuola? Senta, all'interno del progetto che sta portando avanti ho visto che c'è anche il suo vecchio professore di matematica che la sta supportando, ma della scuola di oggi lei, oltre al suo professore di matematica appunto, che cosa salva? Noi salviamo della scuola proprio il senso della scuola, cioè quello di fare esperienze e di apprendere, ma non le modalità con cui tutto questo avviene. Cioè la scuola è un elemento centrale della nostra vita, nel senso che l'apprendere, l'essere educati, il fare esperienza, il conoscere i maestri, chiamiamolo così, sono tutti elementi fondamentali. È il modo con cui tutto questo avviene che è giusto, ed è anche ora, che cambi con il cambiare dei tempi. Cioè non è pensabile che la scuola di oggi in qualche modo sia uguale a 50 anni fa. E i professori invece come li sceglierete? Ci siamo mossi cercandoli, ma in realtà è successo qualcosa di magnifico, cioè che abbiamo ricevuto ben 112 candidature. Questo glielo dico con precisione perché insomma, questo è il numero a ieri. Certo. E quindi abbiamo smesso di cercarli. Di questi 112 ne sceglieremo 5 per quanto riguarda le materie fondamentali, che sono quelle costituenti della scuola, e poi ci saranno tanti che conosceremo attraverso le attività che verranno inserite nel quarto modulo, che è quello a classe unificata. Quanto costerà iscriversi? Costerà tra i 7 e gli 8 mila euro all'anno, con tutto dentro, il che vuol dire lo sport, la musica, l'arte, l'inglese, la mensa, tutto quanto, quindi i genitori non hanno bisogno di spendere altro, e ci saranno le borse di studio, cioè esattamente come all'università, per chi non può permettersela ci saranno dei fondi dedicati alle borse di studio che tutti quanti, quindi noi vogliamo essere una scuola aperta, potranno richiedere, e naturalmente daremo in base ai fondi che possiamo distribuire. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti Cravetto, senti, niente cartella, niente compiti, niente voti, posso continuare un secondo? Niente banchi, niente carta igienica. Roma... No, non ha detto così, scusa. Ma no, per dirti che se aggiungiamo qualche niente, a Roma siamo pieni di questo tipo di scuole, solo che le chiamiamo le scuole impossibili. Non l'hai capita la mia intervista. Ho fatto come non te. Non ho capito quella del libro. Comunque una cosa che non manca mai in nessuna scuola è la chat delle mamme, che se si abolisse ogni tanto invece quella, no? No, quella non manca mai, Cravetto, però siccome siamo amiche, un po', a giorni, alterni, mai di venerdì, io ti voglio portare in un sogno. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Donatella? Donatella? È allegra, finalmente. Da che lo vedi? Beh, no, non è che lo vedo, Donatella, la sento, canta, quindi anzi può abbassare un po' il volume? Uffa, ma mica canto perché sono contenta. E perché? La La La è il musical che mi avete mandato a vedere. La La Land. Zitta. E poi finalmente, dopo tutti questi anni, mi avete fatto vedere un musical. Non è strano che continuiamo a incontrarci? Forse vuol dire qualcosa. Non penso. Sì, in effetti è. Ti puoi scrivere i ruoli da sola, scrivere cose interessanti come te senza dover fare provini. Cosa pensi di fare? Apro un locale tutto mio. Sentiremo questo ogni volta? Credo di sì. Hai capito? Ci sono questi due personaggi un po' spiegati che si incontrano. Lei vorrebbe recitare e invece deve fare i cappuccini. Lui vorrebbe fare il jazz. E invece gli fanno fare quel tipo di pianista che tu vai e dici: oh, me lo fai Baglioni? Oh, mi fai il sapore del sale? Come si chiama il pianista? Donatella, lei parla del piano bar. Brava. Grazie. Allora, questi due insieme vogliono arrivare al successo. Tipo te. Non si riesce. Però nei musical la gente non si parla come facciamo noi, capito? Si canta. Hai capito? Non è chiarissima, però. Ti spiego. Allora, facciamo una prova di parlare cantando tipo musical. Fammi una domanda. Beh, per esempio, Donatella vorrebbe parlarci del cast? Parlerò del cast e della pena. No, ho capito adesso, ho capito, io la imploro di fare un po' meno. Uffa. C'è un tipo che si chiama Ryan Gosling. Sì, Ryan Gosling. È una tipa che è Maston. Sì. Il film invece è di Damien Chazelle. No, va bene Donatella, va bene Donatella. Si è col CCH, ho detto. E ha pure vinto i Globes ed è candidata a tanti Oscar e quindi anche solo per questo motivo vale la pena. Cosa, vedere il film? Che è andare a cena con te. Grazie certo. Donatella, grazie. Ti dico prego in musical. City of stars, just one thing everybody wants. Fiori, ma tu l'hai visto La La Land? Io sì, ma dobbiamo sperare che Donatella non stia ascoltando perché si arrabbia tantissimo. Mm. Però l'ho visto e mi è anche piaciuto un sacco, però è un film che divide tanto tanto. In che senso? La questione sostanzialmente è: Sola o capolavoro? Io mi sono quasi commossa. Quindi per te è capolavoro? Capolavoro non lo so, però diciamo che ha scalfito questa corazza di cinismo dietro il quale, la quale si nasconde un cuore d'oro, ecco. E invece chi è che non la mia amica si è addormentata, ecco. Ecco, buono. Ma secondo te a me piacerebbe? Secondo me tu sei una romantica in fondo, quindi secondo me a te piace. guess now it's time for me to give up. I think it's time. Ecco, e su un'altra canzone romantica molto arriva il nostro Frankie Schipani per andare nel 1995. Ciao Ale! Ciao Frankie! Frankie, tu l'hai visto La La Land? Mi rifiuto politicamente di andarlo a vedere perché io odio i musical. Ma ecco, soffermiamoci un attimo, scusa, sulla boy band, esatto, perché non so se te li ricordi. Loro li abbiamo visti bene. Ma non ne parleremo okay, della boy band. Valeva la pena. La terza categoria di esclusi dalla La La Land, naturalmente, è quelli che ti dicono, ma cantano? Tu dici, beh, in effetti cantano. È un musical. Ah no, io il musical lo odio. Come Franco. Siamo tanti che ci addormentiamo puntualmente nei cinema quando ci costringono ad andare. Ho un'amica da presentarti, Franco. Sì, ma sai che se tu dormi ti fanno pagare poi mezzo biglietto? Ah sì? Sì, ti restituiscono parte dei soldi. Dici, guarda, io ho dormito. Dici, prego, allora ti danno un buono per mezzo cinema la prossima volta. Vale anche per il teatro? No, il teatro no. Però conosco delle persone che hanno un'autonomia al teatro di 45 minuti. Se ne vanno sempre a un certo punto dicendo... Non posso prendere il posto, sai, quello vicino al corridoio, laterale, così a un certo, certo, punto. Sì, e se ne vanno. Guarda che 45 di minuti, Franco, sono una vita. Secondo me ha ragione questo mio amico. 45-48 è il limite massimo. Senti, 45-48-95. Diamo i numeri, esatto, oggi. Sulla ruota di Bari. Esatto, sta per uscire il numero 95. Cravetto? Ciao ragazzi. Amica mia, ciao, ci salutiamo. Buon 95. Che dolore. Noi andiamo nel 1995, subito dopo la pubblicità. Ciao.